Rispetto all'anno scorso dobbiamo aspettarci quasi il doppio delle persone, questa è la prima considerazione, perché l'anno scorso avevamo più o meno una settantina di squadre, quest'anno abbiamo superato le 120, per cui vuol dire che insomma sta funzionando, si sta radicando la manifestazione. Abbiamo aperto anche ad altri tipi di attività e di giochi, come chiamiamo noi, per cui anche al frisbee piuttosto che al quidditch e al cricket, e però i numeri dicono che insomma andiamo bene. Per esempio sulla pallavolo, che l'anno scorso avevamo 12 squadre, quest'anno ne abbiamo 20-26, per cui insomma vuol dire che anzi siamo ancora inclusivi, per cui fino a che possiamo accogliamo ancora squadre che anche in questi giorni si stanno iscrivendo e ci si aspettano 2 giorni e mezzo, da venerdì alle 6 fino a domenica fin dopo pranzo, di divertimento sui campi, per cui si gioca un po' a tutto, musica, perché ci saranno i DJ sui campi e anche Radio Città Fujiko contribuirà, e poi cultura degli incontri particolarmente interessanti e dei dibattiti particolarmente efficaci. A proposito di cultura, verrà presentato anche una graphic novel che riguarda il calcetto. Viene presentato il graphic novel Senza Pietà di Mario Breda, con Piero Di Domenico, che farà insomma l'introduzione, per cui lo intervisterà, e riguarda 20 anni passati su un campo di calcetto da parte di una squadra di calcetto che si incontra ogni mercoledì. Qualche anno prima era il giovedì, adesso è diventato il mercoledì. Mi riguarda anche un po' da vicino, perché insomma sono uno di quelli che gioca a calcetto in quell'ambito. Visto che ci sarà spazio anche per il teatro, delle performance. C'è spazio per il teatro, sì, ci saranno delle performance di carattere teatrale che saranno un po' itineranti. Nel programma abbiamo messo un orario, un luogo, ma probabilmente verranno replicate 2 o 3 volte, per cui qualche volta in più. E in più dopo ci sarà questa è una delle novità, un'attrice di Atelier C, Fiorenza Menni, che leggerà 12 storie, per cui in alcuni casi saranno testimonianze dirette con direttamente i testimoni, in altri casi saranno delle storie che leggerà lei, verranno lette sui campi, saranno 12 storie di 3 minuti ciascuno, che entreranno a bomba nell'atmosfera del gioco, per cui si vuole riempire il gioco anche di contenuti un po' più robusti, perché in questo caso si tratta dei diritti negati rispetto a muri visibili e muri invisibili, e queste 12 storie racconteranno questo. Sarà un percorso un po' sperimentale, ma anche molto interessante. Il tema dei diritti è al centro dei dibattiti, ma ho visto che per quanto riguarda la musica torneranno dei grandi amici, insomma, Los Fastidios. Sì, tornano, devo dire che abbiamo sempre mantenuto i rapporti, quest'anno era l'occasione per rifarli risalire sul palco, loro erano entusiasti, noi siamo entusiasti di riaccoglierli. Il sabato alle 9:30 Los Fastidios allieteranno insomma il pubblico dei giochi antirazzisti, credo che insomma faranno abbastanza baracca e saremo tutti felici. Dove trovare il programma completo? Il programma completo lo si trova su Facebook e su Instagram di Giochi Antirazzisti, per cui basta andare su Facebook Giochi Antirazzisti e